Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sul Faxal, mentre corro, vedo delle donne che a me sembrano dell'est, che con i loro mariti accanto cercano di imparare ad andare in bicicletta. E le vedo che fanno pochi metri e poi devono mettere giù i piedi, perché stanno per cadere. Oppure vanno avanti, ma la bici sbisola tutta di traverso e i mariti a correrle dietro e a tenerle su. Mi chiamo Angelo Puliti, ho 45 anni, abito a Piacenza. Faccio il consulente informatico, sono un libero professionista e per lo più insegno informatica presso degli enti di formazione della mia città. È un 8 di marzo qualunque del 2012, sono le 6 e... buonanotte. Le 16 e 7 minuti, questa è Radio 24, è da un po' che non lo dico. Io sono Matteo Caccia e voi siete qui. E se voi siete qui, potete constatare che oggi, il giorno della sua festa, Margherita Ina, nostra redattrice, affianca al nuovo stagista Christian, che è arrivato oggi e che salutiamo quindi da Cassina De Pecchi. Cassina De Pecchi abbiamo scoperto esistere solo perché esiste la fermata della metropolitana. Cioè, non è che hanno fatto la fermata perché esisteva Cassina De Pecchi. Lo sapete, vero? Anche tu lo sai, Chris. Cioè, hanno fatto la metropolitana, poi ci hanno creato intorno un nucleo abitativo. Anche se non abbiamo ancora capito se l'affiancamento, cioè l'affiancamento professionale, lo fa Margherita a Christian o Christian a Margherita. Cioè, si affianca... non so se mi capite. Affianca chi deve imparare o chi deve imparare affiancato da... 349-238-6666, perché vedo Margherita nel giorno della sua festa un pochettino persa. L'argomento di oggi non è le donne come voi immaginate e come immaginano tutti i signori pakistani agli angoli delle strade, ai semafori con le loro mimose, ma è quello che ci ha raccontato Angelo. Ci ha mandato un racconto che parla di donne che lui immagina essere dell'est, per lo più probabilmente dai colori della pelle, dei capelli e dalle fattezze, che imparano ad andare in bicicletta. Questa cosa dell'imparare cose in tarda età è una cosa che a noi piace raccontare, credo l'abbiamo già fatto, abbiamo parlato dei maestri e delle cose che si imparano quando si ha la consapevolezza per imparare le cose. E quindi oggi a tutte le donne che stanno ascoltando questo programma alle 16.09 di un qualunque 8 marzo del 2012 abbiamo voglia di chiedere semplicemente questa cosa: tutte le cose che avete imparato tardi, dove per tardi vale qualsiasi cosa, ovviamente. Se avete 25 anni, tardi sono 20, se ne avete 50, tardi sono dai 30 in su, se ne avete 60 dai 40 in su, più o meno un arco di anni che possa essere considerato abbastanza vicino alla vostra età. Quindi tutto quello che di tardivo avete imparato negli ultimi anni. 349-238-6666, oppure fate come hanno già fatto le donne sul profilo Facebook del programma, che Matteo Caccia, io sono qui. Roberta, ho iniziato a fare l'amore a 18 anni, ma ho imparato veramente a farlo bene solo a 35. Susanna, ho imparato a dire di sì anche se penso di no, a non mantenere rapporti solo per convenienza, a non uscire solo perché si deve, a selezionare ai minimi termini le amicizie che vale la pena considerare tali, a non finire un libro che proprio non mi piace, a dire sempre quello che penso a costo di perdere un rapporto. Mi ci sono voluti 56 anni. 349-238-6666. Laura, ho imparato a pensare meno menate e che male c'è se ogni tanto si delude qualcuno. Meno menate, questo in realtà vale per tutti, cioè vale per uomini e donne, no? Cioè, anche se per menate poi vabbè, ci sono varie sfumature, ma si capisce di cosa parli. Stefania, il mio apprendimento tardivo: ho imparato a fare una buona pizza, a fregarmene se ogni tanto esco vestita da bulgara, e ti ringraziano tutte le bulgare all'ascolto, ovviamente. Non l'avevo letto questo. Vabbè, tutte le donne bulgare all'ascolto, Stefania, in particolar modo ti ringraziano. E a dire quello che penso, ho imparato. Per me oggi le mimose potete anche mangiarvele. Ah, Stefania è proprio arrabbiata, eh. Cioè, Stefania non è una di quelle che se le regalano le mimose ringrazia se le porta a casa, che proprio le girano se gliele regalano. Cristina, ho imparato ad ascoltarmi. Viva! 349-238-6666. Il racconto di Angelo in realtà parla appunto di una piccola cosa che riguarda queste donne, come vi dicevo, che imparano ad andare in bicicletta in un punto preciso della sua città,

ascoltando la passione. Perché mi piace, perché Caterina considera il funzionario tributario come una specie di essere immutabile che non può nella sua vita fare nient'altro se non occuparsi di tributi. 349-238-6666. No, allora, maschi, è inutile che provate a mandare messaggi. Si capisce che siete maschi e si capisce da come lo scrivete, e soprattutto se vi firmate. Andrea, la mia voce interiore dice che la mia ragazza non interessano le mimose, lei è una vera femminista. Perché alle femministe non interessano le mimose? Ah no, perché è offesa? La mimosa è un'offesa? La mimosa è un'offesa? Marghe, tu sei... Hai la faccia da femmina. Ma Marga, sì, va bene, non facciamo la categoria delle femministe ora, perché altrimenti noi non usciamo più e secondo me non interessa nemmeno a loro. Però ho la sensazione che Margherita Hina, venendo da una vecchia famiglia comunista di Lomentino, possa avere... No, dice di no. Basta parlare di donne, parliamo con Angelo e capiamo che cos'è il Faxal. Pronto, Angelo? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Senti, ma tu hai 48 anni? Dimmi. Quanti anni hai? 40, hai detto? 45. 45. Perché ci hai mandato una foto in cui sembri un rocker di 29. Quella foto è di 2 o 3 anni fa. L'ho mandata perché ho una faccia un po' allucinata. Infatti avevo 39 di febbre. Ah, okay. Ed ero imbottito di antibiotici. Ok, infatti perché l'espressione da rocker io la immaginavo per altri motivi, invece erano solo antibiotici. Sì, no, era solo antibiotico che sembra un po' fatto. Però mi piaceva perché mi immortale insieme a un gatto che non c'è più da un paio di mesi, che mi ha fatto compagnia per 15 anni, quindi c'è anche ricordarlo. Scusami, e che era la tua unica compagnia? Tu sei single? No, ho 2 gatti e convivo con una ragazza che saluto, che probabilmente mi sta ascoltando, e saluto perché è una donna che è in dolce attesa e vabbè. Da quanto è in dolce attesa? Da 3 mesi. Ah, quindi è una cosa che sapete da poco, cioè avete avuto la conferma a breve? Sì, da pochissimo, infatti credo che diversi amici che magari stanno ascoltando la radio lo sanno adesso. Lo stanno prendendo adesso. Ora, tipo, caramba, che sorpresa. Senti, ma quanti anni ha lei? 33. E state insieme da quanto? Mi sto facendo proprio i fatti vostri, se te lo stai domandando, la risposta è sì, me li sto facendo. Da quanto state insieme? Esattamente da 10 anni. Da 10 anni, ci avete pensato un po'? Un po' molto, sì, un po' tanto. Senti Angelo, tu ce lo sai dire perché si chiama Faxal oppure no? Mi sono nel frattempo informato, un po' per rimanere in tema con il racconto, cioè dopo 45 anni che ci abito vicino l'ho scoperto oggi. Io pensavo derivasse da un nome latino, una cosa così, invece deriva dal nome inglese Vauxhall, sì, che è un quartiere londinese. Un quartiere di Londra, in cui nell'Ottocento sorgeva un viale alberato che delimitava appunto la città di Londra, e Piacenza si è ispirata nel costruire appunto questo viale che appunto delimitava la città al nome di questo. La Vauxhall, che poi è il nome inglese della Opel. Esattamente, giusto? La marca della macchina. Ho cercato, guarda, anche su Wikipedia, tanto per, certo, però si trova solo... Certo. Che è il nostro migliore amico, figurati, in redazione, sì, infatti, abbiamo più rapporti con lui che nostra Wikipedia madre. Wikipedia inglese. Vabbè, ci siamo arrivati, quindi è semplicemente la citazione di un viale londinese. Quel quartiere in realtà si riferivano a quel quartiere col nome di Fox Hall, anche lì c'è tutto, okay, un giro di nobili. Dove sei adesso, Angelo? Sono in casa. Mi ricordi che lavoro fai? Sono un consulente informatico. Beh, fondamentalmente tengo corsi di informatica, cose come Excel, Word, Access, PowerPoint, per un ente di formazione di Confindustria Piacenza. Ma perché nel 2000, ma perdonami, nel 2012 c'è ancora qualcuno che ha bisogno di fare dei corsi di informatica? Beh, di aggiornamento, sì, aggiornamento aziendale. Noi, lavorando appunto con Confindustria, con le aziende, spesso... Qual è l'età media? Dimmi. Qual è l'età media dei partecipanti? Diciamo dai 30 ai 40 anni l'età media, poi vabbè ci possono essere anche ragazzi più giovani in corsi di apprendistato, oppure anche persone più adulte che magari così lavorano in azienda già da un po', ma non hanno avuto magari, la possibilità di imparare a usare il computer solo da autodidatti e vogliono perfezionarsi. Angelo, ti ringrazio per il racconto e ti faccio in bocca al lupo a questo punto per la tua compagna e la dolce attesa. Ti ringrazio tutti, soprattutto le donne della sua redazione, in particolare Margherita, che è stata gentilissima. Anche perché è l'unica, grazie e mille. Fatti. Ciao Angelo, buona giornata. Ciao. Oggi 53 anni, mai ballato, 3 anni di corsi di tango argentino, una meraviglia. Saluti, Laura. Voi siete qui. Voi siete qui. Ora, io vi chiedo di andare sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, tanto sarete davanti a un computer al lavoro o a casa, o se non ci siete lo fate più tardi, e mi dite se la foto di Angelo non è quantomeno modificata, nel senso, perché la faccia da fatto ce l'ha, ma è il problema degli antibiotici, ma non è un uomo di 45 anni. Cioè, sembra più anziano, sembra più giovane di Pietro la Corte, che in realtà, grazie anche ai suoi capelli e alla sua barba, ne dimostra 30. Ha una felpa col cappuccio, da tipico ragazzo con dei problemi. Ha una felpa, appunto, sulla felpa c'è scritto bass player, non si capisce. Appunto, ha la faccia malaticcia e di fianco a lui il gatto che, ahimè, non c'è più. 349-238-6666. Le donne e tutto quello che hanno imparato in tarda età. Silvia, ho iniziato a cucinare bene a 45 anni e ora sono 47. Cioè, che è da 2 anni che hai imparato a cucinare bene. A 59 anni ho imparato quanto è bello adottare in famiglia un bracco italiano, cioè un cane da caccia, abbandonato perché poco amante degli spari. Sono Alessandra, psicologa, 50 anni, sono alla seconda lezione di inglese e mi diverto. E beh, insomma, è questo lo immagino. Ciao, a 26 anni ho imparato a fare il pane da Princi, che vabbè, è una panetteria milanese. Da 15 anni lavoro in proprio, ora ne ho 48 e ho 14 dipendenti, però non riesco ad imparare a fare l'imprenditrice. Firmato Medat, che ora o c'è il T9 che ha fatto degli errori, oppure Medat è un nome, credo, arabo, immagino, o nordafricano, se non sbaglio. Vabbè, però sparo a caso. Magari invece è bulgaro, giusto per così, per eguagliare quello che abbiamo tolto alle bulgare prima, grazie al messaggio dell'ascoltatrice, cioè, che diceva vado in giro vestita come una bulgara. Ho 37 anni, ho imparato a nuotare 4 anni fa, a suonare il violoncello da un anno. Non è mai troppo tardi, Sonia. Quando vedete... Ah, ecco qua, questo invece è il messaggio di una straniera, immagino. E quando vedete gli stranieri come me imparare in tarda età ad andare in bici, è normale, perché da noi non c'era il mezzo per motivi economici, e quando vieni in Europa devi imparare per necessità lavorativa. Quindi non capisco però quale sia la nazione d'origine, cioè non capisco da dove. Mandami un messaggio e dimmi da dove arrivi, no? Perché se dici che vieni fuori dall'Europa potrebbe essere Asia, beh, potrebbe essere tutto, Matteo, no? Se è fuori dall'Europa potrebbero essere tutti e 4 i continenti, giusto? Oddio, se cominciamo a immaginare quali sono i paesi dentro o fuori, prima e dopo, non ne usciamo più. Ho iniziato a fare l'amore a 17 anni, ho imparato a fare l'amore a 38, probabilmente era il momento giusto. Silvia, a proposito di questo e di molto altro, io voglio ringraziare 4 giovani attrici, perché le attrici sono sempre giovani, anche quando hanno 70 anni, e non, che sono Simona, Elisa, Ginevra e Marta, che stanno lavorando a uno spettacolo che si chiama Le ragazze e che parla di donne. È uno spettacolo molto divertente che ho avuto la fortuna e il piacere di vedere in una specie di prova. Sai, quelle cose che fanno gli attori, che prima la proviamo e vediamo com'è e poi lo facciamo, che ha, insomma, che parla di donne e non solo, e finisce in un modo che secondo me è molto leggero, molto garbato e molto divertente. Poi prendetela come preferite, che di fatto è una preghiera e si chiama Preghiera di una donna. Ti prego, fammi essere dolce, aperta, generosa e trasparente, ma anche misteriosa, passionale, forte e seducente. Fammi apparire pura, ma fai che possa essere sporca quando serve. Che possa sostituire l'innocenza con la volgarità e viceversa. Che da bambina io diventi donna in un battito di ciglia. Che sappia muovermi, parlare, pensare come se conoscessi tutti i segreti della natura, tutte le sfumature del comportarsi. Fai che io possa essere madre, figlia, sorella, amica, amante, nonna e zia. E che scelga il ruolo giusto nel momento giusto. Che io sia sincera, ma che sappia raccontare le balle più belle, saggia e ponderata. Che io sia pulita, liscia, glabra, e che i peli crescendo disegnino forme dalle geometrie perfette, o che crescano solo sotto forma di lunghi rigogliosi capelli in piega. Che io sia selvaggia e che i miei odori siano richiamo di animale in calore. Fa che i miei occhi urlino proteggimi, ma anche non preoccuparti, ci penso io. Fa che le mie labbra siano capaci di sussurrare con lo stesso trasporto e la stessa leggerezza ti amo, ma anche no. fa che mi scappi una scorreggia esclusivamente in solitudine, all'aria aperta, circondata dai fiori. Che mi scappi la cacca solo quando vado a trovare i miei genitori, così da potermi liberare sulla tazza dell'infanzia, dando loro prova di un corpo sano. Che io sia spontanea, impulsiva, vulcanica e che io sia controllata, ferma e centrata, come un leone in attesa. Che io pianga poco e rida molto, e se ferita, che mi trasformi in guerriera. Che lanci frecce di sagacia e umorismo e che la mia forza torni poi a sonnecchiare come una gattina al camino. Interessante e interessata. Magra, ma non troppo. Simpatica, senza eccessi. Intelligente, ma con umiltà. Gonfia lì e piatta là. Mora dentro e bionda fuori. Rossa nei giorni di festa. Di pelle scura nella stagione estiva, eccetto due triangolini bianchi lì e una striscetta nera là. Di pelle di giglio in quella invernale. Tutta, come quando avevo 5 anni e giocavo nella piscina di gomma, cavalcando il pesce gonfiato con il calore del mio fiato profumato. All you guys out there that can't be trusted, we girls give you our hearts and you return them all busted. But don't take advantage of us just because you can, 'cause if you make us do wrong, we may never be good again. So listen, let us be good. Sto imparando ad andare in bici, ho 27 anni, Rosa, a 26 anni ho imparato a suonare la tromba e ora ne ho 37, Lada. E poi mi scrive Laura da Monza, evidentemente a proposito della cosa che dicevo, non comprate voi le mimose, le devono regalare. Io ho comprato mimose ieri per conto di mio figlio Francesco, che le ha regalate a tutte le compagne della classe di prima liceo scientifico. Cioè è un figlio che è un cialtrone già, cioè che in prima liceo regala le mimose a tutte le compagne. Non voglio, le fa comprare dalla madre innanzitutto, non voglio immaginare gli altri compagni maschi. Sono Agnese, ho imparato a nuotare a 44 anni e usare il computer a 57 per poter parlare con mio figlio che si trova in Scozia per fare un dottorato. Vorrei sapere Christian, che ha 29 anni, giusto? Che cosa hai imparato? 28, scusami. È che sei un po' brizzolato, Christian, e ne dimostri un pelo di più. Vorrei sapere cosa hai imparato dall'affiancamento a Margherita Ina, la cui festa è oggi, giusto Margherita? Essendo tu unica donna di questa redazione. Vi ricordo che Margherita Ina cura praticamente tutto, oltre che a me e Tiziano Bonini, e cura Twitter, cura il profilo Facebook, cura Pietro Lacorte, che altrimenti con i capelli che si ritrova sarebbe un dread vivente. E poi ancora Alessandra, ho imparato a ballare flamenco a 30 anni, ne ho 42 e dopo 2 figli continuo ancora. Oggi è la mia grande passione. Grazie a lei, grazie a Tiziano Bonini, appunto, a Pietro Lacorte, a Margherita Ina e a Christian, il nuovo stagista di Radio 24. E grazie anche a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Angelo e parlava di donne. Quella di domani è la storia di Paola e parla di galline. Avete presente quelle cose che si dicono sull'imprinting, no? Tutto vero. Brad Pitt mi stava tutto il giorno attaccato e quando aveva paura mi saliva di corsa sul braccio per poi addormentarsi tra i miei capelli. Abituato a stare in casa tutto il giorno, dopo un po', Brad si convinse di essere un cane.